la maggior parte della gente che avete visto a Dadaab, che fuggono, scontri e tutto quanto, questi partono nella regione del Bai e del Bacol, che stanno sud da dove stiamo noi, ma abbiamo avuto noi anche qui dei problemi per la perdita del bestiame, perché a Jowhar e nelle vicinanze, cioè la siccità, è un gran numero di perdite di bestiame, che è una cosa veramente da capogiro, perché coloro che abitano non vicino alle zone dove passa il fiume piantano il sorgo, perché il sorgo cresce solamente con la pioggia, cioè la maggior parte della popolazione che è basata la loro vita sulla coltivazione del sorgo, non c'è stata nessuna raccolta, perché c'è stato 8 mesi che non è piovuto, la perdita del bestiame, l'agricoltura che era talmente bassa, c'è stata una sofferenza, guarda, incredibile.